Ciao. Check 1-2. Hello, check 1-2. Check 1-2, 1-2. Check 1-2, 1-2. Hello, check 1-2, 1-2, 1-2. Check 1-2, 1-2, 1-2. Attenzione, binario 10, K. Attenzione, binario 10, K. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Vai Tony, no, vai adesso. Adesso vai bene. Capa, prova. Hola, 1, 2, 3, com'è la modulazione? Un po' strana, è un po' troppo. Alto, già l'ho pregiudicato, lo sciure. Oh, se aumento innesca, sono troppo vicino al baracchino. Hola. Sono distante almeno 40 centimetri. Ora vai bene, vai. Amplifica, sì. Sì, a posto. Ok, ho saltato il filo che era già ormai 5-6 mesi che era staccato con lo salto. Dopo lo salto non ho mai saltato. Adesso che sono libero, me lo sto saltando. Però ma c'è qualche radio accesa, c'hai? Sì. Ecco. Così va bene. Così va meglio. E lo so, stava innescato. Come? Stava innescato, beh, lo sento anch'io. Lo so, sto un po' innescando. Adesso va bene, eh. Ecco. Ora, faccio vedere. Colorazione che l'ho aperto, sì. 10, 11, 12, 13, 13, va bene così. Attenzione, va bene. Capo, mandami quella ricetta su WhatsApp, Tony. Appena poi. Capo, aspetta, vado. Della cadenza te lo prendo, te lo dico. Aspetta, ho trovato la foto attentamente. Stai strappando un po'. Sì, lo so, aspetta. Non ha entrato nessuno. Antonio! Io dimmi! Ti ho sentito, ero lontano dalla radio e ho corso per arrivare subito qua. Sì, ora bisogna il corrino. Abbiamo risolto, ti puoi immaginare. Abbiamo risolto qua, magari arrivavo e tu non c'eri più qua. Oh, già ci sono, già. Ok, meglio così, dai. Sì, perché avevo lasciato acceso col volume un po' alto, faccio vedere se sento qualcuno. Ed ecco che ti ho sentito, ma ero il piano di sotto io. Cappa. Vabbè Giulio, da posto? Sì, diciamo tutto a posto. Come sempre, tu, se tira avanti, dai. Cappa. Ah, come segnale, ma se pochi po'. Se tu sarà tu. numero di VAT, se è 995. Ciao Giulio. Oh, ciao Tony, da quel tempo che non ti sentivo, scusa un attimo. Sì, tanto con 2 VAT io uso quello, il VAT, e tanto non mangio nient'altro, non è che ho lineare o niente. E così, è arrivato Tonino, ciao Tony, avanti, buona serata. Io non sono più accendendo, non sono fatto fieli, poi sono fatto e basta, capito? Dopo la macchia è conto mio e quindi mi lasciava un po' stanco, diciamo, accendere la paracchina, non avevo neanche buglia, entravo tardi, quindi tutto qua, abbiamo piacere d'amore, che sta già un bel po' di lavoro. Ok, Antonio, sei pronto che te lo dico? Sì, dimmi. Allora devi mettere 300 grammi di farina di cicci, 700 di acqua, 3 cucchiai di olio in una teglia, a ungerla bene. Però aspetta, quando tu frulli tutto, lascia riposare per almeno con 3 ore buono, e poi ce la metti nella teglia. Sì, sì. 300 di cosa, 700 di acqua. Avete già compreso tutto. Non me la ricordavo più. È un pizzico di sale, piacere. Sì, sì, sì, sì. Io per sale dove vi faccio vedere l'acqua. Capito Giulio, quindi ha detto qua, qualche volta non c'era mai nessuno, ha detto non accetto più, ho staccato tutto, penso non fatto, tutto qua. Tony, purtroppo è così. Infatti stavo pensando, ma come si può fare per cercare di ripristinare la frequenza? Questo è considerato che ormai la gente sembra che si sia stancata. Anch'io tante volte ho acceso, ho accendo, non c'è nessuno e chiudo, cosa so fare lì? Ascoltare il QRM non ci rimango, non ne vale la pena, tanto vale me ne scendo giù, me ne scendo al piano di sotto, accendo il computer o la televisione e così il tempo lo passo lo stesso, però mi sarebbe piaciuto che ci fossero sempre delle persone al baracchino per scambiare 4 chiacchiere, Tony. Come ti arrivo giù lì? Come radio, Giulio? Ma la radio ti sto sentendo bene adesso, inizialmente non troppo, adesso non capisco per quale motivo, forse non ero a posto io, ma sembra di sì. Comunque la radio adesso è buona, dai. Sto usando quel microfono asciule, era un bel po' di mesi senza, c'era un filo staccato, dovevo saltarlo, me ne sono fregato, poi tra che cavolo, tra la frequenza, la frequenza, e quindi automaticamente poco fa lo sono saltato, riesci a vedere proprio tutto qua. No, lo sai cos'è Tony, magari tu sei un po' come me, no, che parliamo un pochino in fretta, e avendo un microfono che spinge abbastanza, tante volte qualche parola magari non arriva limpida, però parlando in maniera tranquilla e lentamente, diciamo lentamente, nel senso che in maniera più che normale, va benissimo, è un microfono straordinario quello, non ci sono dubbi, solo che se lo usi come ti ho detto, parlando velocemente, magari super burla, inizialmente perlomeno alle volte lo sento così, però è eccezionale. Il microfono quando parli tranquillo va benissimo, non c'è problema. Sono a 2,5 perché se aumento sono altra roba accesa, mi innesca, se no aumenta come radio. Ora, innesca, però la modulazione aumenta, se io spengo tutta l'altra roba uscire un bel forte, ma poi mi dicono sempre abbassa, allora lo lascio così e va bene. Sì, infatti più basso va bene anche abbassare anche un po', penso un po', secondo me, io penso che anche abbassando ancora un po' va bene ugualmente. Non so, forse in linea d'aria siamo anche vicini, che ne so, e alle volte, ripeto, come ti ho detto, quando parli troppo fretta, ma questa è una cosa, una caratteristica sia tua che mia, anch'io non è che ci riesco a parlare lentamente, a meno che non mi sento un po' male, allora chiaramente è la forza del sacrificio che stai sopportando ti porta a parlare piano, a parlare lentamente. Però è come il microfono, quando parli tranquillo, per me è eccezionale, uno dei migliori in assoluto. Vediamo un po', Antonio cosa dice? Capo, no, già va bene, già, buongiorno, bene. K. Lo sento abbastanza bene, lo sento. È veloce, ma vicino. Adesso ho messo proprio a 5. Adesso è meno tratto, non c'è nessun innesco, mi sento anche nelle cuffie. E così va bene, Giulio. Sì, va benissimo, Tony. Ti sento benissimo, Radio 5. Ottima, no, non c'è problema. Va bene anche così, senza aumentarlo troppo. Va più che bene, perché, ripeto, è un microfono che spinge moltissimo. E se certe frasi, con certe lettere, insomma, diciamo che spinge troppo e allora diventa super modulata e non è così tanto chiara. Mentre invece quando parli tranquillo, anche come ha fatto il passaggio adesso, è eccezionale, va benissimo. Vai, Tony. Andate a vedere. Eh beh, a tu, te l'hai scritta la ricetta? Sì, ho capito tutto. 300 di massa e 400 di acqua. Ma se 300 di acqua e 300 di impasto. Me lo ricordo, adesso me lo ricordo, ma me lo scrivo un pezzo di foglio. Andiamo e andiamo! Ciao! Ricorda, quando la farina cici, piano piano, un po' per volta, sempre con lo frusino, vabbè, c'è quell'elettrico, eccetera, capito, ma tu? Non deve fare grumi, va bene? Avanti Luca, buonasera. Ebbene, andiamo bene. Poi, ogni volta che parli tu si sente qualcuno in banda. Ma c'è qualcuno vicino che manda la tarala. A me Giulio mi sente bene, Antonio mi sente bene. Deve essere qualcuno vicino a me. Comunque ciao Giulio, ciao Antonio. Avanti Giulio. Ok, ciao Luca. Vabbè, comunque. Stavo pensando Luca, cosa pensiamo di farne di questa frequenza? Ci riusciamo, visto che siamo tutti CB di lungo corso, a ripristinarla in maniera assidua, senza stare così, oggi ci siamo e domani no. Non dico che dobbiamo essere proprio con i cazzi vicino al microfono, però insomma, cercare di renderla un pochino più attiva. Ci riusciremo e chi lo sa, saremo a vedere. Vai Tony. Vabbè, io non posso mai garantire che ogni giorno entro la frequenza, perché dipende da quello che faccio, capito? Quindi ho un bel po' di lavoro e non so se riuscirò a entrare una mezz'oretta. Se c'è gente, potrei anche provare a accedere, non attaccate il pille, poco fa, guarda. Accedere chi c'è, che se non c'è nessuno può rispettare, ovviamente. E allora, Luca, che dici? Ma se c'è qualcuno nell'11 alfa. Ecco perché. L'11 alfa c'è qualcuno, boh, non lo so, io non lo sento, la verità, non lo sento. No, vabbè, io sono un po' fuori e non sento gli splatter, per cui non so cosa dirti io Luca, se tu stai dicendo così, evidentemente è così. Va bene, avanti a tu. Sì, in effetti, cioè, c'ha ragione Luca. E beh, tu. Mi sentite? Ma molto forte o poco forte? Io ti sento ottimo, bella radio, perfetta. Certo, ma è un po' di troppo però. Esista. Così va bene. Ora, ora. Se no bomba troppo. Stacca, che non c'è bisogno tra noi. No, è regolatore, capito? Come dire il regolatore, non va bene. Antonio, stai parlando con uno che c'è un casino di una vita al baracchino. Grazie con sottosegnale memoria me. Metto il locale e vedo quanto sei, quindi qualcosa l'hai messa vitamina, dai. C'è un momento girato, c'avevo. Cazzo, lui fa radio bomba vero me. Avanti giù. Sì, va benissimo tu, non c'è problema, lascialo così che già va bene. Alla grande. E allora purtroppo il nostro amico ci ha lasciato, vabbè, che nel cielo ci sia anche lui, purtroppo il destino è stato quello, pazienza. Ma a proposito, il funerale è stato già fatto, io non ho saputo niente. Tu hai saputo qualcosa, Tony, se il funerale l'hanno fatto? Io stavo trabaccato, non ci sono andato, ma so un po' tutto. Praticamente il funerale non lo fanno perché la chiesa non accetta quando uno si ammazza, hai capito? La chiesa non accetta? Ma come mai? Cosa c'è da non accettare? Boh, non capisco. dice Gesù Cristo ti ha dato la vita e tu non te la puoi togliere, te la deve togliere lui. Ne stiamo parlando proprio con Gianni Doppio oggi al telefono, sapete, stamattina. Quindi è così, alcune chiese lo accettano, deve essere quelle che assistono, non lo accetta, capito? Quindi è male, figlia, se non un capo usato, lo sotterra e ciao. Senza problemi. Tutti ieri c'era la messa, praticamente Antonio c'era perché mi ha detto Gianni, eravate solo in tre, eravate. Ma io come la penso io, lui è una persona che io li volevo molto bene, li volevo. Anche se qualcuno mi ha detto il contrario, mi ha detto. Il problema, lo dico apertamente, non me ne ha fatti un bel da ceppa, non me ne ha fatti. Il problema non era Natalino, e qua chiudo. Il problema non era Natalino perché c'è stata una persona che mi ha fatto bisticciare con lui, per colpa sua pure. Per colpa sua, non qua, può anche registrarlo qualcuno. Non me ne frega niente, poi gli ho detto dimmi cosa c'è, dimmi, e poi non era vero niente di quello che ha detto. Ora c'è quella persona, c'è qualche persona cattiva, Dio la punirà, Dio la punirà. Io gli volevo molto bene a lui e mi dispiace che sia andata così. E qua chiudo. Ma ecco, anche io ho avuto qualche parola tempo fa con lui, ripeto, non era farina fare ossa anche lui, dai, comunque io lo conosco la vita, Natalino, e quindi, e per ciò che è successo io mi sono attaccato per un semplice motivo, perché a fianco a lui vicino abita la mia suocera, e poverino, 90 anni, non riuscì a mettersi alla televisione, oh, alle 8 precise, boh, lui scuro lo schermo. E se vuoi capose, chiede che d'altro, non ti dico altro. Ho detto quello che le ho detto, si è chiuso il discorso. Punto. E poi un giorno ci siamo trovati noi insieme. E le cose che ho detto chiaretto in faccia pure. Non c'è problema. Comunque sono cose passate, non mi interessa di elencarle. Anche se non dite di nuovo, però non voglio neanche ricordare, so io non ricordo come un vero amico e basta. E se lo dico, ci perdono tutto comunque, a tu, tutto qua. Luca, ci sei? Sì, ancora abbiamo a parlarne, perché adesso non c'è più, c'è tutto, ma no, non penso che sia giusto parlarne. Vabbè, è iniziato Giulio e quindi, sapete, quel così di Antonio ha continuato. Ok, mi ripeti, cambiamo discorso perché, ripeto, non fa. Avanti giù. Ok, no, perché volevo sapere se era stato fatto, ma mi avete già spiegato com'è andata la questione, ho capito benissimo, ho capito benissimo. Comunque io, per il mio carattere, io sono sempre stato uno che nella vita bisogna anche saper perdonare, se uno ha avuto qualche così qualche parola di troppo nei confronti di un altro, poi il tempo guarisce tutto. Secondo me bisogna sempre saper perdonare, che è la cosa migliore nella vita, se no andiamo e finiamo la nostra vita con quel rancore, con quel livore che non è possibile trattenere nella, perlomeno il mio carattere è quello. Io posso anche bisticciare con una persona, ma dopo passa, perché è giusto che sia così. Io nel mio carattere so perdonare, ecco, come voglio che anche gli altri siano uguali a me, e che se io ho sbagliato qualche volta che perdonino anche loro, perché la vita deve sempre continuare in buona armonia, con tanta felicità e con stima soprattutto l'uno dell'altro. Io la penso in questo modo. Vabbè, dai, comunque chiuso tutto il discorso, non è il caso di continuare. Ad ogni modo, anch'io lo conoscevo da una vita intera, l'amico, e mi è dispiaciuto moltissimo. Purtroppo il destino ha voluto quello, che finisce così, pazienza. Avanti Antonio. Antonio si è spostato. Sì, non siamo tutti perfetti comunque. Beh. Ma io mi meraviglio una cosa, Giulio. E quando trabacavo, anni e anni fa, ma sto parlando più di 12 anni fa, quando eravamo ancora con l'Inca, o 15 anni fa, non mi ricordo con esattezza, un altro ex collega, che di Liputti forse l'è conosciuto, Massimiliano Bruzzo, si era impiccato. E tanto è vero che lì, proprio alle punti, quella chiesa che c'è proprio rotonda, hanno fatto il funerale. Perché in quella chiesa lo fanno e qui non l'hanno fatto? È quello che mi meraviglio. Ma questi preti come cavolo sono? No, non lo so, la verità, io non sono un frequentatore della chiesa, però allo stesso tempo non giudico mai l'operato dei preti, perché non mi ha mai interessato, perché anche loro sono uomini, possono far bene, possono sbagliare tranquillamente come tutti gli uomini della terra, per cui non so cosa dirti. Tu toglimi dalla semplice Ave Maria, del resto non so altro, Tony, non so altro. Io vado in chiesa solo quando in momenti particolari, come può essere che sono io appunto per accompagnare una persona defunta o un matrimonio o un battesimo, queste circostanze qua, ma non sono mai stato un frequentatore della chiesa, però allo stesso tempo non faccio polemica contro la chiesa e contro il preti, soprattutto come fanno tante persone, non mi interessa, ecco, tutto lì, per cui non so cosa dirti. Vediamo se è rientrato Antonio, non rientra, Luca? Sì, sono qua, un attimo, sto facendo una cosa, riprendi Antonio. Ok Luca. E che no, tale qua dico, anche io non sono un frequentatore della chiesa, assolutamente. Io sono andato perché era proprio collega, si è piccato, vabbè, cavolo, dispiaciuto a tutti. C'era tutta l'azienda, praticamente, il direttore, gli ingegneri, tutti, capito? A parte tutti gli operai. Va bene, dai, cambiamo discorso, che è un discorso un pochettino monotono, diciamo, bruttino, perché, lo so, prima o poi tutti quanti andiamo a finire lì su, non è che diciamo no, io non ci vado, assolutamente. Quindi, ci vuole pace e armonia tra tutte le persone che si conoscono, queste dico, non dico altro. A me dispiace anche questa guerra che ci sono, che è un casino, e per colpa di questo imbecille Zelensky va a finire che Putin c'è avuto qualche bomba atomica, ma succede che ci passiamo anche noi, perché nell'aria arriva tutto e siamo anche molto vicino alla Russia, ma mi auguro di no, dai, che questo, insomma, o se scende i pantaloni e dirà scusate, non so, e poi anche l'America con l'altra imbecille che le dà questi missili a lunga gittata per arrivare in Russia. Io mi auguro che non succeda questo, perché sennò lui l'ha già detto, chi tocca la Russia agirà diversamente. L'ha già minacciato delle bombe atomiche, quindi bombe nucleari, e vabbè, dai, comunque questa frequenza è così, comunque poca gente, pochissima. Giulio, io che pochissime volte che ho acceso non vedo mai nessuno, staccato a piede, buttato per terra, buffato, non mi interessa più niente, sono stato mesi senza accetta, perché tanto, e qualche volta che ho telefonato qualche persona CPI mi ha detto ho acceso, non ti ho sentito, cosa c'è da fare, non vedo mai nessuno, poi arrivo stanco dal lavoro e penso a quell'altro, cosa ne fai, in frequenza non è più come una volta, sta andando e decadendo. Ecco, l'altra persona mi ha telefonato da fuori e mi ha detto questa civile di Sassari sta morendo, cercate di attivarla, e come ti va a attivarla? La gente è proprio una cana, non lo so Giulio, ora è tempo, cosa ne so, di preti. Ok, tu, sì, beh, in effetti anch'io l'ho pensato, infatti anche oggi ho mandato qualche messaggio per cercare di avere un consiglio anche da parte di un altro amico, per vedere com'è che si può fare per ripristinare la frequenza. Mi ha risposto e chiaramente, però poi bisogna che tutto l'insieme messo, sia l'idea mia, l'idea tua, l'idea di tutti, insomma, messo insieme che sia valida, non che succeda come è successo già un'altra volta, che avevamo tentato di fare una specie di alleanza generale fra tutti i CB di allora, sto parlando di tantissimi anni fa, tantissimi, saranno 10 anni, 12 anni, 13 anni, non lo so di preciso, e poi tutto è andato a monte, pazienza, dai. Però io dico questo, cerchiamo di vederci bene tutti quanti, che siamo tutti quanti o persone umane, persone educate, persone civili, per cui bisticciare non ha senso, non ha senso nella maniera più assoluta. Sì, poi naturalmente ci possono essere delle contraddizioni, ma devono rimanere contraddizioni abbastanza tranquille, senza nessun rancore, senza nessun cosa. Io l'ho preso in questo modo, Tony, vai. Giulio. Sì, ma una volta c'era un periodo tantissimo tempo, per me sono preso nel 80, 83, 85, ci rilevavamo già a Piazza dei Segni, ci trovavamo lì, una bella chiacchierata, la sera, tra amici, o si organizzava qualche cosa, ma era diverso, c'era molta più gente, adesso se vogliamo veramente dentro di noi lo possiamo anche fare, da un fine settimana ognuno sarà impegnato, cioè avrà i suoi problemi, giustamente lo si può dire, ogni giorno ci troviamo, ma un fine settimana si potrebbe trovare, organizzare qualche cosa, capito? Ecco la pizzata, quello che vuoi, però giustamente adesso ora che ora non è così, ognuno pensa come la vuole, non lo so. Non ho capito il perché questo assentismo della 27, perché è pure peccato di, insomma, fare poco gli amici, trascuri quella mezz'oretta tranquilla, serena, e insomma, non tutti ovviamente stare ore e ore al baracchino, chi lo può fare è beato lui, capito? Tutto qua. E vabbè, se ci riusciamo è bene, Giulio, ci ho pazienza. Io giustamente preferisco più guardare un film, allora la televisione danno bei film, o se voglio ridere vado al canale 34, oppure vado al canale 20 e danno bei film la notte. Non è più come prima, io posso sempre tentarci di invogliare qualcheduno, poi non lo so, tutto dipende dagli altri, Giulio. Guarda, per me non ci sono problemi, a me, io purtroppo sono un uomo che purtroppo ha avuto le disgrazie che ha avuto, e cosa, per me mi farebbe un sacco di piacere condividere anche un qualcosa con un amico, cioè fare una bella zimminata, cioè o mangiare a fare la pizzata e cosa, sarei più contento del mondo, sarei, guarda. Oggi me ne sono andato al mare, me ne sono andato, siamo abbigliato l'urbanino, siamo stati bene a Platamona con mia cognata, siamo stati benissimo, siamo stati. Io sarei anche d'accordo, Antonio, per me non c'è problema, capito? Io ho detto anche poco fa, mi sono pronunciato di dire fine settimana perché ognuno ha i suoi problemi, come io, no, problemi di lavoro, perché adesso ho degli impegni e come chiedo la parola a Giulio per fare un lavoro a casa sua o dove, in campagna sua, e poi no, vado con un amico CB perché devo fare la pizzata, no, è un giorno feriale, ce l'ho preso con Giulio, vado a Giulio, io lo penso così, prima dovere poi piacere, quello per fine settimana a me perfetto, non ci fa una grinza, avanti Giulio. Ok, sì, ma quello che penso io, vabbè ormai ci siamo 50 anni, sarà anche quello il fatto che ci siamo stancati del baracchino, non lo so, ma io dico questo, noi abbiamo la passione da sempre, da quando eravamo ragazzi praticamente, è questa passione che dura già da 50 anni e anche oltre, non capisco così di punto in bianco nel giro di un paio di anni, proprio è stata abbandonata la frequenza quasi del tutto, quasi completamente, era una passione tranquilla, sana, ci divertivamo al baracchino, scambiavamo le quattro chiacchiere, del più e del meno, dicevamo delle cose serie, dicevamo delle fesserie, indubbiamente, come sempre in tutti i casi e in tutte le circostanze della vita. Purtroppo è andata scemando piano piano questo tipo di abitudine, per cui non capisco come mai. La passione, suppongo che ce l'ha avuta, ce l'avrà ancora, non credo che le sia sparita così la passione per la radio alla gente, assolutamente no, perlomeno io parlo di quelli come noi che siamo anzianissimi della frequenza, molto anziani della frequenza. Poi tutto il resto lascia il tempo che trova, le parole, le discussioni, le contraddizioni, tutto lascia il tempo che trova, ripeto, perché bisogna sempre anche saper perdonare, tutto lì. Avanti io, Antonio. Ma guarda, io sono amico di tutti, non rompo le scatole a nessuno, non sono, guarda, credimi, sono un tipo molto pacifico, cioè sono fatto il buzzi, sono buono con tutti, però non voglio, cioè non ti metto le scatole, le critiche, so come si dice, ma non c'è d'accordo con tutti qua, c'è gente qua in frequenza, ma quando io sono in frequenza ci sarà, guarda, ho perso il conto, cioè se facciamo il conto sarà proprio di 20 anni, sarò. Cosa, cioè, non, mio padre, devo dire che mio padre era una cosa allucinante, si ubriava con tutti. Io non ho mai perso l'amicizia di nessuno, mai, perché gli ho telefonato e cose, io l'amicizia non la perdo. E tuttora siamo amici. Perché? Perché ho un carattere così, io ho un carattere così, io non voglio amicizzare con nessuno, sono pacifico, sono con tutti, però non sopporto le prese in giro, perché cioè, se tu con me mi tratti bene, saremo amici per decenni, sempre per anni, ma io non ti rompo mai le palle qua, sono fatto così, sono fatto. Stare qua, ti ricordo. Io ripeto il mio lavoro, sono in pensione, però faccio i lavori che stesso conto mio, sto bene, sono tranquillo, sereno, tutto qua. Se voglio dedicare una mezz'ora per gli amici, ok, va bene. Però giustamente non voglio rompere la luce, sennò chiudo tutto con la notte, me la porto pure a mano. Ci siamo noi tutti a bisicciare, capito? Però arrivato a un certo punto ormai si può, chi me lo faceva? Allora, va. Oh ia ia, sono Antonio io, ma se ritorniamo come una volta forse la vita, dai, così. Ci godiamo, diciamo, quello che ci rimane da vivere, perché non sappiamo mai se oggi ci siamo e domani non ci siamo, capito? Ci auguriamo di durare il più che possibile, che Dio ci piega in vita. Tutto qua. Ripeti Giulio. Ok, ma non so se c'è qualcuno che vuole entrare o che sta parlando sotto, non lo so, perché ogni tanto c'è una specie di ciccalino o di disturbo, non capisco cosa può essere, vediamo un po', c'è qualcuno che vuole entrare? Ecco per me che vuole la mano al bambino, facciamo la manietta. Probabilmente così. Sì, ma è così, in effetti è così, anche perché dobbiamo capire soprattutto che siamo tutti quanti uomini grandi, per cui avere delle contraddizioni, delle discussioni, o magari qualche discussione che non condividiamo può anche capitare, però questo non significa che si deve bisticciare nella maniera più assoluta o che si deve tenere rancore, no, nella maniera più assoluta. Ripeto ancora una volta, l'uomo deve saper perdonare, quella è la cosa più bella della vita, dell'esistenza della vita, per cui non ce ne possiamo andare all'altro mondo rancorosi o livorosi nella maniera più assoluta. Avanti a tu, Antonio col bambino sicuramente sta dando attenzione al bambino, avanti Tony. Sto scrivendo questo, l'ultima parola del messaggio di un mio, diciamo, collega di lavoro stesso. Allora, okay. Per domani ci serve questo spray pacificato, sì, pacificante, tremibilizzante, eccetera eccetera, e stiamo facendo delle ringhiere, quelle che si sono arrugginite, la ruggine ha mangiato tutto, noi le tagliamo proprio tutto via, il scorrimano, e saldiamo lo scatolato nuovo, capito? Tutto saldato sopra e i fianchi eccetera, poi lo benediciamo con due mani di ruggine bianco e poi ci va questo spray plastificante o Giulio, così quando piove la scivola. Certo che sì, vabbè, il lavoro, se uno se la sente di continuare a fare dei lavori, tanto meglio, è meglio che vengano sempre qualche, anche per passare il tempo, anche per arrotondare un pochino la pensione, tante cose, sempre tante cose, finché uno fisicamente ce la fa, per quale motivo non lo deve fare, se riesce il lavoro è meglio che lo prenda, per cui è meglio così. poi se uno chiaramente non ce la può più fare, si sa, il tempo ce lo dice di smettere, ma quando uno è ancora in forma, tranquillo, che una persona è sano tranquillamente, così non c'è nessun problema, è meglio che lo faccia, anche perché serve per allungare la vita, secondo me, perché tenersi in esercizio per conto mio è fondamentale agli effetti dell'esistenza. Io l'ho preso così. Vediamo se è rientrato Antonio. Antonio è andato alla parte del bambino, a fare il bagnetto al bambino. Bambino, oppure sta facendo qualcosa di interessante a casa. E Luca ha detto che Antonio si è spostato per fare il bagnetto al bambino, capito? Ok, io ripeto, sono sempre in movimento, Giulio. Chi si ferma è perduto, assolutamente, non esiste, no. Io diventare il caso fermo. Sto facendo il bagnetto al bambino. Sempre un momento, sono sempre lo stesso, già mi va bene così. Un altro che mi è salvato, un messaggio al nastro mi sarebbe bene. ok. Sì, beh certo che sì. Sta facendo il bagnetto al bambino, Antonio ha detto. Che sta facendo il bagnetto al bambino, quello interessante, è importante. Certo che sì, ma l'ho pensato che sta vedendo, un'attenzione al bambino, Antonio, sicuramente l'ho pensato perché non poteva essere diversamente. Vediamo se c'è ancora Luca. Luca! Io mi sto facendo il bagnetto da solo, Tu da solo te lo stai facendo il bagnetto. Tu lo fai un bagnone, tu fai, non un bagnetto. C'è un bagnetto piccolo, già lo sai, quindi sono rimansato. Saluto a tutti comunque, mi ascoltate. Pompuzzi, ogni tanto ci si risente. Beh, adesso che ho sistemato l'antenna, ho messo l'antenna grande, lo sai che l'antenna mia ha avuto dei problemi, c'è passato un fulmine, mi ha pigliato in pieno, quindi sono rimasto come un imbecille con l'antenna piccola della macchina, quindi devo modulare così quando c'era un po' di tempo. Adesso invece ho messo nuovo l'antenna grande e sto modulando con quella. Il vizio lo faccio io, quando c'è temporale il PL lo staccavo sempre, ma poi ultimamente da mesi e mesi che lo staccate il PL lo buttavo per terra, buon faccia. Il PL l'ho buttato in terra, non è quello il problema, la mantova si è completamente fusa, la bobina, mi ha preso in pieno il palo, il cavo dell'antenna TV, mi ha bruciato due televisori, a parte il termico di casa, hai capito che ha preso fuoco, quindi io la vedo a un certo punto, a parte ho preso spavento con Simona, che con tutto questo fumo, c'è la televisione acceso, il televisore è diventato rosso, bianco, verde, arancione, si amava, perché ce l'avevo acceso, quindi figurati tu. Vabbè, sono cose che succedono, dai. Non sei il solo, tu pensa che c'è mica l'ho più sentito da anni, Tacco, che era la Landriga, prima della Landriga. Lui aveva un mulino a vento e quel palo di 20 metri ci aveva messo l'antenna. C'era un bel giorno il fulmine, l'ha preso l'antenna, tutto il capo è entrato dove c'erano le baracchine e salotto, perché un poco vizio un salotto, tutto si è bruciato. Poveraccio. Avanti Giulio. Purtroppo quando succedono queste cose non c'è difesa, non c'è difesa assolutamente. Qualche anno fa, diciamo saranno 4-5 anni fa, qui lo stesso era sceso sull'antenna di uno che abita a 200 metri in linea d'aria da casa mia, e aveva addirittura incendiato il tubo dell'entrata del gas davanti alla porta di casa sua, infatti sono dovuti arrivare i pompieri e l'hanno dovuto spegnere loro, perché aveva bucato il tubo che portava il gas dentro casa, ti puoi immaginare. E a me mi aveva bruciato il router del computer, poi mi aveva bruciato l'alimentatore, da 25 ampere switching, due baracchini, e poi cosa era? E un'altra cosa che adesso mi sfugge, e avevo un linealetto 747 che avevo preso da Gianni, anche quello mi aveva bruciato, non avevo fatto in tempo nemmeno a usarlo che me l'ha bruciato, perché ce l'avevo pochissimi giorni, il giorno era venuto Gianni e mi ha detto lo vuoi questo? Dammelo avanti, abbiamo fatto l'affare e è arrivato questo temporale, io ero al lavoro, purtroppo era tutto attaccato a casa e mi ha bruciato, arrivo a casa e non funzionavo più nulla, pazienza. Nonostante che era distante in linea d'aria da dove è caduto il fulmine, 200 metri da dove abito io, Otoli. Poi avevo fatto un disastro qui nella zona, aveva bruciato gruppi elettrogeni, scaldabagni, cose che non ha bruciato, frigoriferi, addirittura meccanico a 800 metri di distanza da dove sono io, aveva bruciato il compressore, un sacco di macelli abbiamo fatto. Non c'è difesa contro quelle calamità naturali, Otoli. È il fulmine è forte, è migliaia e migliaia di volts, quindi. Vabbè, anche scienziati hanno provato a misurarlo, niente, ogni strumento che loro metteva tirava i fulmini, si bruciava. Tu pensa a te forti, purtroppo. Bisogna stare attenti, e quei persone poveracci che muoiono, un fulmine c'è sereno, perché dicono addirittura giugno. Se a 50 km c'è un temporale e tu qua c'è il sole, potrebbe arrivare il fulmine anche qua che c'è il sole. Dicono fulmine c'è sereno, sì, perché percorre migliaia, c'è centinaia di chilometri anche il fulmine. Pare così, ma è così. Si è sentito? Sì, sì, lo so. Poi ho un altissimo amperaggio, e dunque è quello il problema, il danno è soprattutto quello. Il grande amperaggio, 5.000 ampere è il minimo di potenza. Perché quando scende una cosa del genere si può immaginare che era stato disastro che fa. E vabbè, speriamo bene che non succeda mai niente. Comunque questi ultimi giorni qua che ha fatto un po' di vento, c'era un gazebo in una terrazza qui, l'ha sollevata in alto, l'ha sollevata e l'ha buttata sul tetto di un'altra casa vicino. Ti puoi immaginare, un gazebo bellissimo, bellissimo, un gazebo tenda, però non di materiale, un gazebo tenda. Con pilastri eccetera eccetera, aveva i quattro pilastri laterali grande, almeno un 4 metri 50 per 4 metri 50, l'ha sollevato in alto, l'ha sollevato e gliel'ha distrutto completamente perché l'ha buttato sul tetto di una casa vicina, Tony. Questo è un colpo di vento nei giorni passati, in questi giorni si è fatto quel vento fortissimo. Vabbè, comunque succedono queste cose. Avanti Antonio, ci sei? Antonio ancora riprese col magneto. No, io ti ho fatto una cosa, diciamo, bella per me. Non è bella, ma è bella lo stesso. E ti spiego perché. Il mio cavo dell'antenna, siccome l'antenna c'è l'altra 6 metri, c'è il palo 6 metri per l'antenna, che sono altri 6 metri qualcosa. Il capo praticamente interrotto sotto la veranda, ci ha messo un barilotto e 2 PL e poi l'altro 2 PL a casa. Se dovesse capitare disgraziatamente un vento di oltre la portata che l'antenna tiene, che la butta giù, straccia il cavo, in caso non ci arriva, si sgancia automaticamente dove c'ho il barilotto, parte il PL e in caso non mi fa volare niente. Questo l'ho fatto, questo accorgimento, perché dove sono io, Giulio, il vento è fortissimo, grazie a Dio questa antenna che avevo preso l'avveno è minorita, cioè sì, c'è i radiali piccolissimi, belli rinforzati, grossi in alluminio, alta quasi 6 metri qualcosa, 50 metri d'onda, però ti dirò, per quello che costa, ma ho preso soddisfazione, non si è mai piegato. Potrebbe cadere il tubo, ma non l'antenna. Sì, sì, sì, e anch'io, io devo dire che in tanti anni che ho l'antenna piazzata non ho mai messo un tirante, mai. Ho sempre utilizzato però tubi abbastanza consistenti, tipo, che so io, 50-60 mm di diametro, per cui è sempre andato bene, non ho avuto bisogno mai di mettere un tirante, né quando abitavo nell'altra casa e tantomeno che ero in questa adesso. Adesso addirittura ce l'ho nel terrazzino della mansarda, ce l'ho attaccata ad avanzare, ho messo due gaffe di quelli da 20 cm lunghi a tassello, e ci ho messo il tubo lì, ma adesso è bassa, e adesso è proprio bassa, bassa, bassa l'antenna. Intanto è la Game Master, non è più la mantova tubo come avevo prima, ma la mantova ce l'ho sempre comunque, non è che non c'è, non, ce l'ho conservata, però non, prima era dietro la parte alta della casa, adesso invece è alla parte bassa della casa, praticamente in facciata, dai, diciamo. E essendo la Game Master, fa vento, si piega moltissimo, perché l'ho vista nel modo come si piega, sembra una canna da pesca, però a questo punto ho visto che funziona, che regge e non si è spezzata. Se si spezza, pazienza, anche perché oggi come oggi ho la possibilità di lavorarci tranquillamente, perché esco fuori nel terrazzino della mansarda con una sedia, salgo sulla sedia, allungo il braccio e stacco il piede. Per dirti quanto è bassa adesso l'antenna mia, proprio bassa, bassa, bassa, no, non c'è problema, avanti Antoni. Io vabbè, solamente tagliarmi l'olivo qua, ho messo a 6 metri di solo di palo, avevo fatto un plito che ci ho dovuto quittare mezzo e calcestruzzo, ferro e via dicendo. E poi c'ho 6 metri, cioè un metro e mezzo affogato il tubo in ferro e poi infilato l'altro 6 metri sopra. E più l'antenna che sono 6 metri e qualcosa. Io ho 4 tiranti, sago la pella grossa e ti dirò. Il tubo manco si muove, perfetto. Poi se si bicia si da via luci, capito? Poi con l'antenna Giulio l'ho pagata 60 euro. Cosa me ne frega se si rompe? Ne compro un'altra, pazienza, non mi interessa, capito? Però mi ha dato un sacco di soddisfazione per il prezzo che l'ho pagata. Bisogna tenere che paga un benedirà e poi non si. Eh beh certo, se rompe l'antenna, pazienza, ecco, da, non è che ci puoi, te ne compriamo un'altra e basta, e tiriamo avanti lo stesso, non è quello il problema. Il problema è appunto quando invece arriva quella maledizione che stavamo parlando poc'anzi, speriamo che non succeda mai per nessuno, per carità, perché quella fa danno veramente, non è uno scherzo, che attività. Ma io mi ricordo c'era uno Vittorio Luna Rossa lì alla Tedolce, gli era arrivato il lampo e gli aveva spezzato il palo spezzato in due sul tetto, ti puoi immaginare. E la volta lui tranquillamente si è salvato tutto, però il palo gli era proprio bruciato, gli era fuso e si è spezzato in due pezzi sul tetto lì alla Tedolce. Vittorio Luna Rossa, buon'anima, per dirti, no, la potenza di questo coso che arriva, per carità. E vabbè, oppure lì vicino al campo della Vivier, un albero troncato in due, un albero abbastanza grosso, il fusto troncato in due, sempre da un fulmine che era caduto. Purtroppo possono succedere queste cose. Va bene, dai, riprendi tu. Ma io mi ricordo 75-76, il fulmine che era caduto in piazza Sant'Antonio, c'era quell'alberello, l'ha troncato in due, pareva un cuscino di corpo tagliato di netto, bruciato, e negli angoli basta, ma tagliato di netto proprio, purtroppo. Bisogna stare attenti, dai, c'è poco da scherzare. Dico che anche il telefonino contiene anche un po' di oro dentro e quindi pericoloso. Oggetti d'oro, pietre che tratta. Tu pensa che anche un filo d'erba attira il fulmine. Ho detto anche questo. Ogni tanto che guardo quei programmi, sono belli veramente. Vabbè, dai. Ma siamo rimasti solo noi due, Giulio. A quanto sembra siamo rimasti solo noi due. Antonio è ancora impegnato col bambino, evidentemente. Per dirtelo, io mi ricordo una quarantina di anni fa, mi telefono la domenica mattina. Mi sto mettendo le calze, lo sto mettendo, anch'io. Tu, un passero solitario, te ricorderai di lui sicuramente, che purtroppo anche lui è deceduto già da tanti anni. E mi ha detto, Giulio, vieni a casa che ti devo far vedere una cosa. Io ci sono andato, che cosa era successo? Gli era entrato il fulmine, Tony, gli era entrato nell'antenna e gli aveva bruciato. Intanto gli aveva bruciato tutto l'impianto. l'impianto elettrico, lui aveva ancora quell'impianto, in ogni stanza c'era la valvolina come si facevano una volta, allora gli era bruciata. Poi ci aveva autocostruito un quadro lui, elettrico, si aveva costruito per poter alimentare la stazione. Beh, questo quadro elettrico gliel'ha proprio fuso. Le radio poi non ne parliamo. Questo fulmine dove è finito? È finito in camera da letto. Lui dietro la porta della camera da letto aveva uno di quei lavoni quando si faceva la provvista dell'olio, o ancora qualcuno oggi lo farà questo sistema così di cose, no? E gli ha bucato il lavone dell'olio che era pieno, la roba di 4 o 5 furi gliel'ha bucato e ha incominciato a zampillare olio in camera da letto. Tu poveretto dovevi vedere la scena della volta, per carità, per dirti quanto è pericoloso questa gente di calamità naturale. O Antonio, Antonio ha fatto capolino. Ma tu stai facendo che non ti ho capito bene. Non ho capito adesso, sto mettendo le scarpe. Allora non ho capito bene. Adesso provo un attimino. Sono a te per le due, però non ho capito bene. Antonio. Magari sta preparando di mangiare al bambino, sicuramente così. Lui ha quella mansione lì da assolvere sempre, ovviamente. Vabbè, ma per dirti no. Ma la volta, caspita, proprio finito proprio dietro il lamone dove c'aveva la provvista del Dorio, Rabbino Passero, solitario, incredibile, caspita. Gliel'ha fuso con presente, ce l'hai quando tu con un elettrodo vai a saldare una lamiera che te la buca. Ecco, così gli aveva fatto il lamone, ma roba di 4-5 buchi, e ha cominciato a zampellare olio da dentro il bidone, sicché ti puoi immaginare tu l'olio che cade all'interno di una stanza, di una camera, che cosa può combinare, Tony, per carità. Meglio che non succeda mai niente del genere. Lo so, purtroppo. Sì, Gavino Passo, lo conoscevo, anche il figlio. Bruno Perfido, sono padre tratto. E allora che tipi c'è, anche Luisito c'era. E a parte Mario Mauro, Giuseppe Fiuccina, Giancarlo Tucatuca, Barbera, e veniva ieri. Oh, che non è più visti. Vedo la Torre Sciopero ogni tanto, e vabbè, e vicini siamo.